Odori lontani, fischi di treno che corre, e polline d'altre stagioni. Scusa se sono distratto, ma oggi mi sento così. Resto con gli occhi nel cielo e con le mani disegno poesie. Credo che sia così. Resto immobile davanti a un castello di nuvole. Scusa se sono triste, ma in fondo mi sento così. Resto con gli occhi nel cielo e con le mani disegno poesie. Di vento aprono occhi ormai chiusi, fischi di treno che sveglia genti d'altre stazioni. Scusa se sono lontano, ma forse meglio così. Resta quel treno che corre e che ti porta alle mie poesie. Mani disegno poesie.